fare una ridurre le tasse sui lavoratori e i pensionati, sui redditi più bassi, e aumentare le tasse sui grandi patrimoni, sulle grandi ricchezze. Se uno ha 10 milioni di patrimonio, anche se gli porto via 100.000 euro all'anno, non piangerà. Il PD vuole i nostri voti per governare assieme a Monti, ma nemmeno morti. O decide che rompe con Monti e allora si discute, oppure dove si è visto mai che per governare con la destra chiede i voti alla sinistra?